Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, insomma si parte, la firma non c'è ancora, intendo quella tra Lega e AEC, ma dovrebbe arrivare in giornata, salvo cataclismi. Quindi venerdì sera debutta la Serie A con Milan-Lazio, sabato sera sempre a Cesena-Napoli, domenica pranzo Juventus-Parma nello stadio nuovo che verrà inaugurato nel frattempo giovedì, e domenica ora di cena invece Palermo-Inter. Sono già saltate due panchine prima ancora di cominciare, Donadoni e Pioli, e cioè Cagliari, e Palermo qualche altra saldissima non appare, anche tra quelle di grido. Che campionato sarà? Ma lo scorso anno ce l'ha raccontato con grande anticipo Giovanni Galeone, beccandoci in una maniera impressionante, cito tra le altre cose scudetto al Milan, Inter che non si sarebbe ripetuta, Juventus settima addirittura, indovinò il piazzamento alla perfezione. Il problema è che non è mai vincere oppure indovinare, il problema è ripetersi, e quindi anche dei vaticini. Bentornato Gale. Ciao, grazie. Senti un po', hai già visto il film anche quest'anno e quindi ce lo puoi già raccontare, oppure quest'anno sei un pochino più incerto? Più incerto, anche perché il mercato è stato diverso, l'anno scorso le cose erano molto più chiare, almeno per me. Sì. Quest'anno ci sono molti giocatori nuovi, ho letto qualche pronostico che dà ancora il Milan molto favorito, io quest'anno non la vedo proprio così. No, però. No. E quindi già questa è una prima piccola sorpresa. Ma hai un'altra squadra da mettere in pole al posto del Milan oppure no? Beh, le solite, l'Inter. Basta. L'Inter che nonostante abbia dato vieto si è mosso abbastanza bene sul mercato, ha sempre una difesa, anche se Gasperini sta provando adesso una difesa a tre, però penso che alla lunga potrà per i quattro soliti imbattibili, cioè Maicon se ha voglia di giocare, Samuel, Lucio e Kivu, insomma con questi quattro qua, il centrocampo che ha con Cambiasso, Stankovic, Zanetti, insomma può muovere dappertutto, Snyder, soprattutto ha preso un giocatore che a mio avviso avrei visto molto molto molto bene nel Milan di Massimo Allegri, che è Forlan. Secondo me è un giocatore veramente molto bravo, sottovalutato in tutti questi anni. Allora, già ci siamo esposti e sbilanciati, quindi ci hai un pochino spiegato già parzialmente perché non vedi quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non vedi così bene il Milan, e cioè il fatto che per esempio una pedina come Forlan sarebbe stata adatta. Che cos'altro ti convince poco del Milan, che pure si è rafforzato rispetto a quello che ha vinto il campionato? Ma non tanto, non tantissimo. Ma sapevo che i nomi che si facevano così a fine campionato del Milan, quando ormai lo scudetto era lì a un passo, erano altri, erano questi Ansi, che era soprattutto Fabregas, eccetera. Per vincere un campionato, per ripetersi in un campionato e soprattutto per poter partecipare alla Coppa dei Campioni in maniera decente, nella Champions League, è evidente che si vogliono rinforzi migliori, perché il Milan è vero, ha preso dietro, ma ha preso Maxès che è fermo da tre mesi e altri tre mesi dovrà fare probabilmente, ha preso Taiwo che qualcuno si chiederà come abbia fatto a giocare nel Marsiglia per cinque anni dopo averlo visto nelle prime apparizioni, però sicuramente non sarà così, perché altrimenti è spiegabile che un giocatore sia così imbarazzante quasi. E quindi Taiwo e Maxès non è che modificano molto la consistenza in difesa del Milan, e lì davanti ci sono un po' i soliti, insomma ha preso Aquilani, che però anche Aquilani è un giocatore che a 19 anni è una delle mie scommesse perse, perché io quando avevo 18 anni avrei scommesso su Aquilani, eravamo in due, anzi tutto, tanti di più, tutto e di più. È un buon giocatore, ha fatto una buona carriera, però non il giocatore che qualcuno pensava avrebbe potuto far meglio. Sei io tra i primi, certo. Quindi vabbè, in prima fila ci sono queste due, in seconda chi piazziamo? A me piace molto il mercato che ha fatto la Lazio, anche se si è privata di Zarate, che è un giocatore che stimo molto. È bravissimo a saltare l'uomo nell'uno contro uno, ha risolto qualche problema l'anno scorso con la Lazio, qualcun altro l'ha creato. Però si è mossa bene la Lazio. La Lazio, quei due attaccanti, Cissé e Close, sono due tosti, sono due bravi che hanno sempre fatto gol e possono contribuire a ripetere la Lazio il campionato dell'anno scorso, anche meglio. Anche meglio. Il Napoli? Il Napoli ha comprato tantissimo, 10 giocatori, ha tenuto Hanšík, ha tenuto Lavezzi, ha tenuto Cavani, per cui i tre gioielli che sembrava dovessero andare via, almeno uno sembrava dovesse andare via. Si è rinforzato a metà campo con Hiller, che è un ottimo acquisto, veramente molto molto bravo, e della cui assenza probabilmente l'Udinese ne risentirà. E il Napoli, secondo me, l'anno scorso ha fatto più del dovuto, quindi se dovesse ripetersi sarebbe un miracolo, a mio avviso. Qualcuno la vede per lo scudetto, io no, sinceramente no, anche perché in difesa mi lascia molto perplesso. Arriviamo alla Juventus. Adesso non ti chiedo di ripetere il piazzamento esatto che hai indovinato lo scorso anno. No, però devo dire, anche se non mi sembra abbiano le idee chiarissime, perché comprano Ziegler a luglio e lo mandano via ad agosto, per tanto per dire, però insomma lì davanti hanno preso dei giocatori non bravi di più, perché Vucinic è bravissimo, e questo è Lia che io ho visto qualche anno fa in un Italia-Olanda, avevo visto in altre circostanze giocare con gli olandesi, è un ragazzo interessante, molto veloce, che sa incunearsi bene, insomma, è un ragazzo. Poi penso che Krasic non possa fare il campionato brutto che ha fatto l'anno scorso e quindi possa ripetersi, e Quagliarella se è in condizioni, l'aveva già dimostrato l'anno scorso, come aveva tenuto a galla la Juventus, che quando ne ha dovuto fare a meno, insomma, ne ha risentito di brutto. Io le mie perplessità sulla Juventus continuo da una vita a vederle bene a metà campo, perché Pirlo nella Juve, se giocano passando da lui molto spesso e volentieri, che quindi ritorna a giocare un po' come una volta nel Milan, Pirlo sta facendo molto bene, sono sicuro che farà molto bene, perché il giocatore è fuori discussione che sia un grande giocatore. E Marchisio lo stesso è un altrettanto bravissimo giocatore. Bisogna vedere Conte che tipo di atteggiamento cercherà di dare la squadra, perché 4-2-4 mi sembra un po' sbilanciato, anche se devo dire che a Bari, quando hanno fatto quel triangolare, le cose più belle forse nel primo tempo di Inter Juve le abbiano fatte proprio con questi quattro giocatori scatenati là davanti, che hanno proposto delle azioni interessanti, questo sì. Senti, il dietro io, dietro problemi. Io continuo, sai, quando mi fisso, non dico contro un giocatore, ma quando un giocatore non mi piace, magari io lo seguo anche troppo nelle cose negative. Ecco, per uno di questi Chiellini, che fa rigore anche contro le Farer, anche se poi non gli hanno dato, ecco, Chiellini è un giocatore a rischio, a pericolo, insomma. Sì. Senti, in compenso però la Juve, cioè secondo me alla fine tu la piazzerai più su del settimo posto, anche perché sicuramente. No, ma anche perché è la Lazio dell'altro anno, cioè è la squadra che non ha coppe, che ha solo quello, no? Che ha questa possibilità, insomma. Ha solo quello, a Conte, che ha voglia di fare bene, che è sicuramente un martello. C'è questa storia che continua a perseguitare un po' la Juve da una vita, questa storia della grinta, della determinazione, eccetera, che io come comportamenti vedo più adatti a una squadra di mezza classifica. Una squadra che debba giocare, sì, per carità, l'attenzione, le cose, eccetera, però uno non deve affidarsi solamente alla grinta, alla voglia, tutte queste cose qui. Queste sono caratteristiche più adatte, più consone a squadre di bassa categoria, dove hanno bisogno di queste cose, di queste caratteristiche, per poter in qualche modo ovviare a quelle che sono le deficienze tecniche. Senti, visto che questo collegamento, non dico miracoloso, ma certamente fortunato, con il largo della Sardegna sta reggendo, io rischierei addirittura di fare questo minutino di intervallo per il traffico stradale, che quindi riguarda poco il traffico navale che interesserebbe a te. Torniamo tra un minuto. Torniamo in compagnia di Giovanni Galeone e cominciamo ad arrivare a una situazione. Adesso abbiamo visto tutte le principali favorite sino ad ora, ne manca una che favorita però certamente non è, quest'anno al massimo un'alternativa, ma l'inizio di stagione certamente è stato molto negativo, anche e soprattutto sul piano ambientale. Parlo della Roma, di Luis Enrique, del problema serissimo con Totti, di un problema ambientale che mi pare faccia da sfondo a una vicenda tecnica che stenta a decollare. Tu come la vedi, caro Galeone? La vedo anch'io così. Per all'inizio, quando facevi il discorso degli allenatori che attualmente sono tra virgolette a riposo, al giusto riposo direi, Cassetto, sì. Rossi e questa gente qui. Sì. La Roma mi intrigava abbastanza, anche vedere questo Luis Enrique in Italia, io me lo ricordo da giocatore, ottimo giocatore. Aveva fatto qualche acquisto giusto, perché anche Bojan è un buon acquisto, peccato abbia dato via Vucinic, sì. Dato via Menes, cioè giocatori anche tecnicamente anche molto bravi, che potevano esaltare il gioco di Luis Enrique. È una squadra così che mi lascia perplesso ed ero curioso più di vedere, però non riesco a decifrarla, anche, non riesco a decifrarla, può essere un flop pazzesco, non dico come la Sampdoria dello scorso anno, che come tu ben sai arrivò alla Champions, no? L'anno prima. Andata dalla Champions, è retrocessa in B, ora a Roma non la vedo retrocessa in B, però potrebbe essere il flop, però mi incuriosisce anche vedere come vengono fuori da questa situazione, soprattutto quando entrerà in scena un uomo che è stato mio giocatore, che conosco bene, so che tipo di carattere ha, eccetera, che si chiama Franco Baldini, e che insomma dove è stato ha dimostrato di saper risolvere alcune questioni, l'ultima delle quali sarà sicuramente quella che dicevi tu di Totti e Luis Enrique, certo. Perché una cosa del genere non si può portare avanti in una squadra, in una società. Dove è stato il tuo giocatore Baldini? Ho debuttato con me in Serie C 1000 anni fa a San Giovanni Valdarno. Ma lui è di Reggello. Di Reggello. Franco Baldini era la mia mezzala, era un ragazzo molto bravo, tra parenti, tecnicamente era un giocatore molto valido. Ed era uno che aveva già carattere quella volta. Carina. Una bella personalità, sì. Carina. Senti, tu hai introdotto uno degli argomenti interessanti, poi vorrei per sapere chi sarà la sorpresa ancora, spero di ricordarmelo, però volevo agganciarmi a questo cenno che hai fatto a Carletto Ancelotti, a Delio Rossi, cioè quest'anno più di altri anni ci sono fior di allenatori, proprio fior con la F maiuscola, di allenatori fuori, cioè di allenatori in attesa di panchina. Ora, secondo te, ne cito tre, Ancelotti, Delio Rossi, Ranieri, condizionerà la loro presenza, come dire, a bordo campo, condizionerà qualche fretta di qualche società che non ingrana? Ho l'impressione di sì. Non paura, ma l'impressione sì, è quella. Soprattutto perché non sono nomi qualunque, quindi sai, quando una squadra dovesse intervenire sa benissimo che se ricorre ad Ancelotti ricorre a uno che più o meno capisci. Così come Delio Rossi ha fatto negli ultimi anni, sia con la Lazio che col Palermo, allenatore bravissimo che non è arrivato una grande squadra, non so per quale motivo, però forse lo avrebbe meritato, certo. Per cui capisci bene che sì. Gli stimoli negativi per i presidenti ci sono. Sì, poi non è che ne abbiamo bisogno, perché abbiamo già visto estate, per carità. No. Però non. Ed è vero che c'è molto carisma fuori dalle panchine attuali, al punto che, e questa è una curiosità su cui volevo invitarti a un piccolissimo commento, una riflessione. Pensa, se io ti chiedo qual è l'allenatore più titolato che quest'anno allena in Serie A, secondo me tu fai fatica a rispondere. No, l'anno scorso però anche avrei fatto fatica, perché l'unico allenatore titolato era Benitez, è stato l'unico allenatore a cui non hanno comprato niente. Sì, certo, dopo questo aver vinto 3 titoli. Questo è vero. Andato via Benitez non ce n'era uno che avesse vinto uno scudetto, neanche uno. E infatti non c'è tuttora, e quello che ha vinto di più, certo, in Italia attualmente è l'allenatore del Genoa, è Malesani. Malesani deve aver vinto col Panathinaikos, deve aver vinto in Serie B col Chievo, deve aver vinto forse col Verona, sì, no? ha vinto un paio di coppe col Parma, una Coppa UEFA tra l'altro, col Parma, esatto. Vero, e quindi l'allenatore più titolato di stagione è Malesani, per carità non è mancato il rispetto a lui, ma voglio dire che dopo anni di allenatori super titolati e che grondavano scudetti, parlo di Cappello, Trapattoni, Ancelotti, è chiaro che c'è questa specie di salto. Chi è delle medie forze? Cioè, chi è l'Udinese? Chi può essere l'Udinese di quest'anno? La Lazio che l'anno scorso non è arrivata. Mi intriga il mio amico a Cesena, Marco Giampaolo. Giampaolo a Cesena. Perché ha preso giocatori di tecnica, cerca di sviluppare un gioco molto tecnico. È stato spesso quest'anno a Barcellona, a seguire il Barcellona, gli allenamenti di Guardiola, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato. E lui è convinto di riuscire anche, non dico a trasportare il Barcellona a Cesena, per carità, però di avere una mentalità di quel genere lì, insomma, giocare con un bel possesso di palla, con molta tecnica, privilegiare una volta tanto la tecnica rispetto appunto alla grinta, all'agonismo. Anche in provincia. Anche in provincia. Senti, potremmo andare avanti ora. Io ti metto ancora lì due curiosità. La prima, tutte e due sono negative secondo me, ma la prima in particolare. Grosso modo c'è un 1% in tutto il campionato di under 21 di scuola italiana. Con rose che abbiamo visto, no, in occasione del contributo di solidarietà potenziale che poi invece non c'è più, eccetera, ma insomma rose che abbiamo visto che sfiorano le 40 pedine, ecco, la media di under 21 di scuola e di nascita di nazionalità italiana è l'1%. E questa è una. L'altra è che per la prima volta nella storia del calcio italiano i portieri stranieri sono maggioranza in Serie A, e credo che tutte e due queste cose ce l'avessero raccontate qualche anno fa, non ci credevamo neanche. L'anno scorso però ne abbiamo parlato, nella settore giovanili, tra parentesi, tu eri reggente o vice reggente insieme al presidente attuale dell'Inter del settore tecnico di Coverciano. 20 e passati fa. Qualcosa di 20 anni fa. Bravo, 21, no? 21. E io venni a tenere, mi invitasti a una conferenza, probabilmente una discussione, cosa del genere, e parlammo proprio allora dei settori giovanili, della carenza dei settori giovanili e della necessità di intervenire finalmente in maniera seria, dando delle regole, eccetera. Cioè, è arrivato Sacchi alla guida di quella che dovrebbe essere la guida del settore giovanile, hanno portato due nomi di spicco, ma come immagine più che altro, certo, magari Vera e Baggio non credo che possano mettersi lì, però dovrebbero muoversi a questo punto. Io so che Arrigo lavora e ha sempre lavorato, perché è stata la sua peculiarità per tutta la vita quella di lavorare, però credo che debba prendere delle decisioni anche abbastanza presto per cercare di risollevare i settori giovanili italiani, che una volta, ai miei tempi perlomeno, ai tempi dei vari Facchetti, dei Bulchi, ai tempi di Trapattoni, Pelagalli, Salvadore, Trebbi, Noletti dal Milan, Bergellino dalla Juve, eccetera, eccetera, avevano Ferrini, Agroppi nel Torino, Donati, tutta questa gente qui, rappresentavano proprio quella che era la base per la continuità poi nella prima squadra, per cui anche la mentalità, il modo di comportamento. Rispecchiavano esattamente quella che era l'indirizzo che dava la società. Questa è una cosa molto importante che purtroppo si è persa in Italia. A me spiace aver interrotto questa placida navigazione, questa contemplazione del mare di Sardegna. Ti auguro che sia più pescoso del solito, ecco, per indennizzarti di questa mezz'ora. Grazie a tutti voi. Chiudiamo il collegamento con Giovanni Galeone al largo di Stintino. Beh, avete sentito che alcune delle sue previsioni sono discretamente in controtendenza rispetto ad altre, rispetto alla maggioranza di quelle che si sono lette fino a qui. Un po' Galeone ha sempre avuto e sempre avrà il gusto, il piacere dell'anticonformismo, ma un po' insomma è anche che ci sono tanti punti di vista, tanti aspetti da tenere presenti, e lui insomma da vecchio lupo di mare di calcio è abituato per l'appunto a tenerli presenti in gran numero. Poi sarà divertente nella seconda parte del programma come dire confrontare le opinioni di Galeone a proposito di griglia di partenza, a proposito di favoriti, a proposito di acquisti positivi, negativi, di sole, no? E di allenatori, come dire, già a rischio sin da ora. Sarà interessante, dicevo, confrontare le sue opinioni con le vostre, e nel frattempo vi prenoterete come sempre all'800 24 0024. Io nel frattempo, per aggiornare, ripeto, una una situazione che ormai comunque è in retta d'arrivo e che nel pomeriggio vedrà la sua conclusione, sentirei una dichiarazione di stamane di Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, alla vigilia, ormai l'immediata vigilia della firma di questo benedetto accordo. Ma mi sembra che l'elemento più importante sia stata la volontà della Lega di firmarlo e quindi il fatto poi di valutare la nostra proposta della settimana scorsa e quindi di prendere anche in considerazione quell'eventualità e il fatto che si siano riuniti in Lega ha portato a questo. Diciamo che sono intercorsi anche due eventi, l'uno è lo stralcio della proposta di inserimento del contributo di solidarietà da parte del governo e poi questo tavolo che è stato organizzato nella giornata di oggi sempre con il governo di rivedere e di valutare alcune norme importanti per il mondo del calcio. Mi sembra che c'erano tutti gli elementi perché oggi si firmi. Molti, molti interventi, molti commenti, anche qualche segnalazione, per esempio nella bassa provincia di Rovigo, scrive Alessandro, la ricezione è un po' disturbata, vediamo di provvedere al più presto. Da Andrea Rapinerolo si è perso il commento di Galeone sulla Juve, può ripeterlo in breve, sì, molto in breve, adesso non è che possiamo metterci a fare Paganini per ogni squadra. La Juve è meglio dell'anno scorso, certamente meglio, sempre con questa incognita che riguarda la difesa e qualche suo uomo in particolare, uno di questi è il perno centrale della nazionale. Torniamo in onda e adesso dopo le opinioni di Galeone sul campionato prossimo venturo, sentiamo le vostre, a cominciare da Gianni, ha chiamato da Siracusa, buongiorno. Buongiorno, sono il dottor Ganzini. Approfitto dello spazio che mi concede per parlare un po' del Palermo. È stato criticato moltissimo il mercato di Zamparini, anche dalla sua trasmissione. Però io ritengo che, cioè, cedendo Pastore, che a Palermo non poteva rimanere, visto che nessuno al Palermo non può garantirgli un ingaggio di 4 milioni l'anno, e, diciamo, non c'era nessun altro non cedibile, tutti erano cedibili, specie la difesa che l'anno scorso ha subito 70 gol, è quello che ha fatto Zamparini, ha cambiato quasi tutto in difesa, e a qualche centrocampista, mi dispiace per Nocerino che era effettivamente un giocatore da tenere, però ha acquistato anche dei giocatori interessanti come Barreto, Alvarez, Mantovani, cioè io non riesco a capire il fatto che si spari a zero sul Palermo prima ancora della prova del campo. È chiaro che io... Gianni, mi scusi, ma qua c'è uno solo che ha sparato a zero prima di cominciare, che è Zamparini. Ha sparato sull'allenatore, come al solito. Quindi vede che è lui che ha aperto il fuoco. Dopo uno si domanda perché e cerca di ricostruire le ragioni. Sì, io comunque credo che la squadra che ha costruito tutto sommato abbia una logica e non credo che faticherà a mantenersi sul lato sinistro della classifica. Poi se uno vuole sognare allora non tifa per il Palermo, è chiaro. Questo magari sì. Sulla sinistra della classifica poi vediamo. Vediamo nel corso della stagione. Perché... insomma, le opinioni di Galeone sono come sempre molto autorevoli. Io la penso in parte come lui e in parte in maniera diversa. Trovo in ogni caso che quest'anno il campionato si è indebolito, genericamente indebolito, complessivamente direi indebolito come qualità, e quindi ci sono più margini. Cioè, è chiaro che tutto questo può permettere una ridiscussione, una ridistribuzione di ruoli, no? Mentre lo scorso anno sembrava, che poi non è stato, perlomeno non è stato fino in fondo, ma sembrava tutto un pochino più chiuso gerarchicamente, quest'anno ce ne sono meno, mi pare, gerarchie. Giancarlo, provincia d'Ascoli Piceno. Sì, buonasera dottor Garanzini. Senta, io mi volevo soffermare sul fenomeno di Mario Balotelli. Sì. Un calciatore che in Italia è stato mitizzato, ne parlano tutti i giorni i media, eccetera. Io faccio solo questa domanda, una piccola riflessione, volevo solo capire che cosa ha dimostrato questo calciatore per meritarsi tutta questa attenzione. Oggi l'ho visto che è andato in televisione, è andato a visitare un carcere, gente che lo abbracciava come se fosse Diego Armando Maradona, o che ne so, tanti altri a livello di Maradona, chiaramente. Questo, come direbbero i milanesi, io lo definirei un pelabroc, proprio alla milanese. Beh, insomma, ho sentito. Lei cosa ne pensa? Ho sentito, penso, le definizioni milanese le lascerei ai milanesi, anche per ragioni di competenza territoriale. Oggi Balotelli è stato ospite del carcere di Sollicciano, in cui ha ricevuto entusiastiche accoglienze da parte di detenuti, ovviamente, stiamo parlando di un carcere. Magrebini, albanesi, africani in particolare, ma ha ricevuto le stesse entusiastiche accoglienze che hanno ricevuto Gigi Riva, Prandelli e Buffon, visto che trattavasi di giocatori di una delegazione della squadra nazionale italiana in visita per l'appunto al carcere di Sollicciano. Che ci sia entusiasmo da parte di 200 detenuti nell'accogliere calciatori o dirigenti o allenatori celebri che li vanno a trovare, io trovo che sia assolutamente normale. Se vogliamo parlare della deriva di Balotelli e del modo in cui sta perdendosi e buttando a mare tutto il suo talento, credo che le occasioni non manchino. Quella che ha scelto lei è certamente infelice in maniera particolare. Luigi dalla provincia di La Spezia, buongiorno. Buongiorno. Allora, ho perso purtroppo la trasmissione, comunque io l'ho chiamato anche l'anno scorso quando c'era Galeone, sono tifoso del Napoli e volevo avere la sua visione anche quest'anno sulla stagione che il Napoli potrà fare, premettendo che da una parte sono molto contento della campagna acquisti che è stata fatta, dall'altra ho qualche dubbio sulle capacità dell'ambiente, di Mazzarri in particolare, di gestire una rosa così ampia, e qualche dubbio forse anche sulla bontà di alcuni componenti della rosa, soprattutto in difesa. Ma a lei, l'anno scorso eravate stati giustamente un po' meno ottimisti di quanto poi il Napoli abbia fatto, sentiamo quest'anno, grazie. Ma Galeone ha detto che sul Napoli Galeone è napoletano, tanto per capirci, quindi una simpatia per il Napoli c'era sicuro. Ha qualche sospetto, ha detto che il Napoli riesca a confermarsi, ha qualche dubbio che il Napoli riesca a confermarsi a livello dello scorso anno, e l'ha più o meno spiegato dicendo, appunto, parlando di qualche riserva sulla qualità difensiva, sul fatto che in genere quando si fa una grande stagione non è mai facile ripeterla, e il Napoli l'anno scorso ha fatto oggettivamente una grande stagione e poi si è fermato lì, anche perché insomma non è che possiamo andare avanti non era un trattato sul Napoli, era un giro d'orizzonte più o meno sulle squadre favorite o sulle squadre principali in vista della stagione prossima. Io ci aggiungerei un problemino ambientale, appunto, perché, per carità, adesso è il momento dell'embarrasson nu, è il momento dei grandi entusiasmi, è il momento di pensare positivo, però non dimenticherei che presidente e allenatore hanno vissuto per più di un mese da separati in casa, mandandosene a dire e dicendosene un po' di tutti i colori. Io non gli auguro nulla di male, per carità, ma mi sembra di ricordare per esperienza che quando si creano queste lacerazioni ambientali, poi anche se sembrano superate, cioè, c'è sempre il momento in cui possono tornare fuori. Quindi anche questo, secondo me, è un fattore da tenere presente. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, mi perdoni se disturbo, grazie per avermi chiamato. Sì. Visto la sua capacità di indovinare gli allenatori che cambia Zamparini, quest'anno detto che Pioli l'avrebbe tenuto per 2 anni, quanti ne metterà nuovi quest'anno secondo una sua probabile chi idea? Zamparini? Sì. Ma non lo so, sinceramente, non credo sia un tema appassionante. No, no, perché, per niente, era solo così una battuta scherzosa per drammatizzare un po' tutto l'insieme. Sì, sì, ma io direi che Zamparini si sdrammatizzerà a sé, no? Credo, per lo spessore della persona, sì, e soprattutto del personaggio che recita da un punto di vista calcistico. Non lo so, adesso c'è questo allenatore primavera, certamente ha già incassato uno schiaffo non da poco, perché insomma lui ha cacciato Pioli convinto che sarebbe bastato far schioccare, senta un po', far schioccare le nocche per far tornare all'ovile degli Orossi, ha preso un simpatico 2 di picche da degli Orossi che gli ha spiegato che che non si, insomma, con grande eleganza dato, gli ha risposto che non si sente ancora pronto a tornare a Palermo, che non è male secondo me come gliel'ha messa. Beh, insomma, è una situazione così non particolarmente lusinghiera, ma nemmeno molto rassicurante, perché poi, per carità, Palermo-Inter domenica sera, la possibilità magari di fare subito una grande impresa, però insomma, no, non credo che in un ambiente tra l'altro così difficile, con un presidente così vulcanico tenera bada, un allenatore di primavera possa essere all'altezza, se non altro dal punto di vista della personalità, di governare una situazione. Massimo ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. No, volevo sugli allenatori vincenti, mi chiedevo se Luis Enrique era da considerare, se non sbaglio era l'allenatore in seconda di Guardiola. No, era semmai l'allenatore. Sì, Cantera, un'altra squadra. Ho capito. Mentre invece l'allenatore del Parma che ha vinto la Coppa UEFA non era Nevio Scala? Prima, ne ha vinta una prima. Ne ha vinte due? Sì, ma forse anche tre, adesso non saprei dirne quante. Okay, comunque, okay, nei primissimi 90, nei 90 Nevio Scala, poi nel 2000 direi, la stagione 99, la stagione in cui Malesani ha vinto contemporaneamente campionato e Coppa Italia, oppure secondo un'altra scuola di pensiero che è la mia, oppure ha perso il campionato quell'anno lì, perché se le rileggo la formazione del Parma di quell'anno, tutti giocatori al top dell'età e della carriera, metteva francamente paura, una squadra che oggi credo così a spanne, ma credo che non farebbe moltissima fatica a vincere il campionato prossimo Venturo, evidentemente con qualche giocatore in più in rosa, perché allora si giocava ancora in meno. Massimo, grazie. Cosa ascoltiamo? Ascoltiamo magari Del Piero, che si esibisce sul nuovo stadio di Torino, che verrà inaugurato, lo ripeto, giovedì sera, con una festa prima, con un amichevole con il Notts County poi, e che insomma, vivrà il suo vernissage autentico, insomma di routine, diciamo il suo primo giorno di normalità sarà la partita all'ora di pranzo tra Juventus e Parma domenica. Penso che ci possa dare una mano e un aiuto in più, quello che ci auguriamo, oltre che l'entusiasmo che una struttura nuova così bella e tutta nostra può dare. Ci sarà anche da parte nostra metterci del nostro, insomma, per poter far sì che tutto l'ambiente venga coinvolto e che si possa respirare un'area particolare. Due le coppe appunto vinte da Nevio Scala, una Coppa UEFA e una, ridiamo a Cesare quello che è di Cesare, una Coppa UEFA e una Coppa delle Coppe, e una, quella vinta a Malesani l'anno nel 99, appunto l'anno di due coppe, di quella e della Coppa Italia alla guida del Parma. Vediamo di riprendere le buone abitudini con questa giornata, quella del 5 settembre, che segna il debutto del palinsesto stagionale di Radio 24. Allora, nel palinsesto c'è questo programma, e in questo programma non può non esserci la rubrica di Nicola Filippone di ripasso della storia dello sport. Sembra ieri. 5 settembre 1965. Per la prima volta nella storia del calcio italiano viene impiegato il portiere di riserva. Succede al Comunale di Torino, al 16° del secondo tempo di Juventus Foggia. I pugliesi possono sostituire il numero 1 Moschioni, infortunatosi dopo uno scontro con il bianconero Traspedini, con la riserva Ballarini, sfruttando così una norma emanata giusto qualche settimana prima dal Consiglio federale. Per la sostituzione di un calciatore di movimento bisognerà attendere altri 3 anni, e precisamente il 29 settembre del 1968. La prima riserva a scendere in campo, al San Paolo di Napoli, è la giovane mezzala del Verona Sandro Vanello, che entra a inizio ripresa e dopo 10 minuti segna un gol a un certo Dino Zoff. Beh, insomma, direi che è un ritorno col botto quello di Nicola Filippone, perché l'anniversario, tra l'altro 65, il 46° anniversario di una cosa che rivoluzionò il calcio allora, il fatto di poter sostituire il portiere infortunato, e poi da lì a 3 anni, per l'appunto, l'inizio delle sostituzioni anche dei giocatori di movimento. Tra l'altro il 5 settembre è anche, mi segnala sempre Nicola, è anche il compleanno di Paul Breitner, un grande giocatore, uno dei più grandi del dopoguerra, uno dei pochi ad aver segnato un gol in due diverse finali mondiali, una nel 74 quando Breitner segnò su rigore contro l'Olanda, la finale vittoriosa, e una nell'82 quando segnò il gol della bandiera sul 3-0 per l'Italia al Bernabeu. Prima di Breitner c'erano riusciti solo Vavà e Pelé, giusto per dire due normali, e dopo ci è riuscito soltanto Zidane nel 98 in Francia e nel 2006 in Germania. Giancarlo in linea da Roma, buongiorno. Sì, buonasera a lei, signor Garanzini. Senta, mi scusi, volevo chiederle, io ho ascoltato l'intervista a mister Galeone, sì. Forse ho perso qualche istante, qualche minuto, le volevo chiedere, non ha mica espresso un parere sul Pescara di Zeman, mister? No, in effetti questa potrebbe essere stata una mia lacuna, perché poi Galeone uguale Pescara, insomma è una vecchia equazione, no? Corretta. E visto che Pescara è partito molto ma molto bene quest'anno guidato da Zeman, diciamo che forse, dato che ci eravamo accordati per una griglia di partenza della Serie A come era accaduto nelle ultime stagioni, il Pescara è rimasto fuori per questo. Certo, il Pescara sta facendo ottime cose e devo dire che ieri gli hanno anche un po' tarpato le ali, perché sennò ne avrebbe combinata qualcuna buona, comunque migliore certamente di quella sconfitta all'ultimo istante che ha subito. Nell'ambito mi è parso ieri, così guardando, dando un'occhiata sia pure un po' distratta a qualche filmato di Serie B, nell'ambito della giornata che dire disastrosa da un punto di vista arbitrale è ancora dire poco, così a occhio. C'è Paolo in linea da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno signor Gigi. Bellissima l'intervista con Galeone come al solito. Mi permettevo di dissentire su una cosa riguardo al rapporto di forza tra Milan e Inter quest'anno. Lui vede l'Inter molto vicino al Milan. Io mi permetto di dire di no, ma per una semplice ragione. Lui la vede addirittura davanti al Milan, secondo me, se non ho capito male. Mi ha stupito molto, tra l'altro. Ecco, esatto, anche a me. No, ma per due motivi. Il primo, vabbè, il Milan ha vinto il campionato e lavorava già con Allegri. E secondo, perché voglio vedere quanto lasceranno lavorare Gasperini come vuole lui. Ma insomma, sa, questo poi dipende. Sa che l'ambiente dell'Inter prima di Mourinho non era leggerissimo. No, ma né prima né dopo non è quello. Lui ha fatto un discorso molto tecnico, mi è sembrato, no? Ha fatto un discorso non anagrafico, perché ha citato tra i punti di forza, ha citato tutta gente che ormai è avanti con gli anni, non c'è dubbio, perché la difesa dell'Inter è partito da Maicon, è arrivato a Chivu passando per Lucio e Samuel, quindi è evidente che sta parlando di insomma non di linea verde. Poi ha parlato di Zanetti, di Cambiasso, insomma, e di un centrocampo Stankovic eccetera, che a sua volta non sono ragazzini, però ha anche detto che il terreno della squadra rimane questo e che davanti è arrivato un grande giocatore di grande personalità come Forlan, anche se ne è andato un campione come Eto'o. Quindi questo è il senso del suo intervento. Poi che lo lasciano lavorare o non lo lasciano lavorare, io questi anni, guardi, anche uscendo dal calcio, quelli che hanno lasciato lavorare è meglio che non ne parliamo, no? Quindi vediamo come andrà, lasciamo che le cose vadano un po' a come devono andare. Marco da Trento, buongiorno. Marco è caduto, si sente questo. Posso chiedere la sua opinione sul caso Forlan? Il caso Forlan nel senso che non può giocare in Coppa. Beh, indubbiamente una bella gaffa da parte sia di chi ha comprato sia da parte di chi ha venduto, che a parer mio non avrebbe cambiato la scelta, nel senso che credo che una squadra che comunque in tempi abbastanza brevi si rende conto di dover sostituire un giocatore del calibro, della personalità, dello spessore di Eto'o, beh, insomma, non è che ha tante scelte in giro per il mondo, e anche alle prese con fair play finanziario in quel momento, secondo me, tenendo conto di questi due parametri, cioè di dover prendere un grande giocatore che ha già dimostrato di esserlo potenzialmente sia a livello di club che di nazionale, e non potendo svenarsi per questo, credo che Forlan fosse il candidato ideale. Che poi potesse o non potesse giocare la fase ascendente della Coppa, insomma, secondo me veniva dopo come, come parametro, però può darsi che sbagli. A proposito di fasi ascendenti e di cicli, Sir Alex Ferguson è a Tor Vergata a Roma, ha ricevuto un premio etica nello sport, avrebbe dovuto fare una lectio magistralis domani sera, che è stata invece anticipata stasera, ma nel frattempo qualcuno gli ha già piazzato un microfono sotto il naso e ha già fatto una serie di dichiarazioni, e la principale delle quali è che il football internazionale, secondo Ferguson, va a cicli, e quindi gli ha chiesto ovviamente del momento del calcio italiano, e lui ha ricordato che il Milan di Sacchi, poi quello di Cappello, Juventus di Lippi, sono stati momenti importanti per il calcio italiano. Poi questo ciclo è finito con l'ascesa delle grandi squadre spagnole e inglesi, e adesso tocca a loro grosso modo essere protagonisti. Abbiamo sentito Del Piero prima, stamane dalle parti dello stadio, del nuovo stadio di Torino, c'era anche il presidente UEFA, cioè una vecchia bandiera della Juve come Michel Platini. Sentiamolo sul tema del fair play finanziario. Avevo già parlato con la gente degli Emirati quando avevano comprato il Manchester City, e loro mi hanno detto che si adeguarono al fair play finanziario, a tutte le regole che si è imposto nel calcio europeo. Dunque non ho problemi, loro sanno. Sapete, più facile prendere delle misure importanti quando tutti sono d'accordo su quello che abbiamo fatto. E vi ricordo che questo è stato fatto, il fair play finanziario, con l'accordo di tutti i club, con l'accordo di tutti i politici, con l'accordo di tutte le associazioni nazionali. Dunque, per una volta che tutti sono d'accordo, dobbiamo rispettare queste cose. Andrea ha chiamato la Napoli, buongiorno. Buongiorno. Io volevo porre questo problema. Mi rendo conto che abbiamo conflitti di interessi più gravi, però è normale vendere i diritti televisivi a una proprietà del Milan che è la stessa di Mediaset Premium. È un ulteriore conflitto di interessi di cui si parla poco, mi sembra, e volevo un'opinione al riguardo. Beh, insomma, l'ha detta lei, è così, credo che sia. E questo conflitto di interessi, anche a proposito del mondo del calcio, grosso modo è ormai di durata pluridecennale, quindi non c'è dubbio che esista, e non c'è molto dubbio che, insomma, che andrebbe prima o poi con calma risolto. Una mail di Agostino, una lettera firmata Agostino Ghiglione che arriva da Roma e che si riferisce alla puntata della scorsa settimana dedicata alla vicenda incredibile ed emblematica di Omar Milanetto. Allora, grazie per la puntata su Milanetto, ribadisco quanto già detto e scritto in precedenza, dunque, e soprattutto ribadisco, dopo aver sentito gli interventi successivi alla trasmissione, in particolare quello spettatore 47enne che presidia il parterre con i due figli, ribadisco per l'ultima volta che io, Agostino Ghiglione, nato a Imperia il 27 luglio del 1941, non entrerò più in uno stadio perché non ho più un luogo che mi si confà. E dato che siamo nella settimana che porta all'inizio del campionato, speriamo che non siano in molti a condividere questa posizione così estrema, così comprensibilissima, però appunto speriamo non maggioritaria. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.